21:30, ma andiamo subito con la sigla della trasmissione. Bene, mentre sta andando la sigla d'apertura di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica. Appunto, come dicevo, mentre sta andando la sigla, vi ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Anche oggi in diretta, essendo 29 gennaio 2026, ora invece ci prepariamo ad ascoltare questa band statunitense. Loro sono gli Interrupters, band che si è formata, anziché la loro prima uscita discografica è stata effettuata esattamente 15 anni fa, nel 2011. Ora invece noi ci ascoltiamo da un loro album datato 2018, Fight The Good Fight. Loro, come già detto, sono gli Interrupters, potrebbero anche chiamarsi col loro cognome, visto che sono tre fratelli e la moglie di uno dei tre. Comunque, andiamo con gli Interrupters. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let them break you down. Not giving up, it's not what we do. Bell rings and the counting. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, iniziamo con così un breve sommario, diciamo, di quello che sono gli argomenti di questa sera. Allora, continueremo un po' la riflessione sul discorso lotta armata e lotta disarmata nei territori occupati palestinesi, e comunque è un discorso che vale in generale, diciamo, per le lotte di autodeterminazione, e proponendo una la lettura così e un commento a una lettera dalla Cisgiordania scritta da un giornalista americano che però ha vissuto, insomma, molti anni là, e che è ricca di testimonianze di combattenti, appunto, palestinesi, e anche un po' illustra la situazione, diciamo, da 10 anni a questa parte, e gli attacchi che vengono sferrati ai campi profughi in questo momento. E poi affronteremo anche prenderemo spunto, diciamo, dalla vicenda della cosiddetta famiglia del Bosco, e per così aprire, insomma, diverse riflessioni a partire, prendendo spunto da un articolo non mainstream sull'argomento. Sì, e dimenticavo, presenteremo anche due iniziative importanti che si svolgeranno sabato 7 febbraio e anche domenica 8 febbraio. Out, and he's been awakened. Sì, allora arriviamo a. Sì, partiamo dal primo argomento che ho annunciato. Il documento da cui leggeremo insomma alcune testimonianze, si intitola Lettera dalla Cisgiordania. Dopo la non violenza, la fine della resistenza pacifica in Palestina. Ma più che di resistenza pacifica, si potrebbe parlare di resistenza popolare, come l'hanno sempre definita i palestinesi. Allora, in questa lettera è una specie di viaggio, diciamo, che questo Ben Ehrenreich, che è un giornalista appunto americano, attivista comunque pro-Palestina, che ha partecipato insomma a diverse lotte, ha vissuto anche là, come dicevo prima, in Cisgiordania, e ha partecipato a diverse lotte come l'interposizione, diciamo, come militante, che come forza di protezione, diciamo, delle lotte dei palestinesi. E lui insomma ci parla molto della differenza, diciamo, tra la prima intifada 87-94, che è detta anche Rivolta delle Pietre, quindi in cui proprio questa forma di resistenza popolare insomma è diventata generale, si è generalizzata. Beh, ricordo, vale la pena di ricordare che appunto la prima intifada è scoppiata l'8 dicembre del 1987 ed è iniziata dal campo profughi di Jabalia nella striscia di Gaza. Cosa era successo? Diciamo come picco, come culmine della situazione devastante, era accaduto l'omicidio di 4 lavoratori palestinesi al checkpoint di Erez da parte di un colono israeliano alla guida di un camion, e da lì insomma è partita e si è diffusa veramente dalla striscia di Gaza alla Cisgiordania, sì, in maniera massiccia. Poi c'è stata la seconda intifada, che è degli anni 2000-2005, diciamo, e questa invece è partita il 28 settembre del 2000 a Gerusalemme, Sharon alla spianata delle moschee, insomma, poi però non solo questo, tutta una serie, quindi diciamo la provocazione di Ariel Sharon, ma anche continue, diciamo, un innalzamento della violenza anche contro i nativi da parte dell'IDF, continui assassini, continui massacri, insomma situazione sempre più insostenibile, per cui c'è questa seconda intifada, che è quella che è più caratterizzata, che si caratterizza di più come rivolta armata, anche un po' più organizzata, diciamo, non solo con armi, appunto, i sassi eccetera, ma in maniera un po' più organizzata. E appunto tantissimi, infatti, hanno aderito, tantissimi giovani hanno aderito, giovanissimi hanno aderito alla seconda intifada. Ricordiamo anche Anan, appunto lui è un militante, un partigiano che ha aderito da ragazzino proprio alla seconda intifada. Allora, che cosa ci dice? Dicevo, questa lettera parla di un viaggio che parte da Ramallah e arriva fino a Jenin, e passa anche per Tulkarem, appunto, anche qui ricordiamo Anan, perché Anan faceva parte proprio della brigata Tulkarem. Questo giornalista ci dice che lui, insomma, che ritorna appunto in Cisgiordania dopo 6 anni dall'ultima sua visita, quindi era il 2019, però dopo anche 10 anni da quando lui viveva in Cisgiordania, quindi siamo al 2015, e prima tappa la fa a Ramallah e viene colpito in questa città dal cambiamento, diciamo, dell'aspetto della città. Lui dice: l'ho lasciata, che era una cittadina, la ritrovo che è una città, e dove sono stati demoliti dei quartieri più così vecchi, diciamo, e ci sono state nuove costruzioni, con un'apparenza anche di benessere occidentale, quindi varietà di beni di consumo, di lusso, che lui dice un tempo, ma non tantissimo tempo fa, sarebbero stati introvabili. Fa degli esempi: occhiali da sole firmati, giacche North Face e stivali Timberland, e traspare, diciamo, da questa sua descrizione di Ramallah anche un po' di, così, di rammarico, diciamo. Cioè lui dice, questo è ciò di cui l'elite palestinese si stava accontentando, e naturalmente si parla dell'elite palestinese dell'autorità nazionale, perché di questo si tratta. E allora, lui ci dice, mi ero trasferito in Cisgiordania durante quella breve stagione, non potevamo sapere quanto breve, in cui era possibile credere che persino i regimi più crudeli potessero essere rovesciati da persone che riempivano strade e piazze e, senza armi o bisogno di violenza, reclamavano una vita dignitosa. E quindi lui dice, cioè lui va là come, infatti va come militante, diciamo, proveniente da un altro paese, proprio come dicevo prima, per fare forza di interposizione tra il popolo palestinese in lotta e le forze militari israeliane. Finisce male già comunque in quegli anni lì, in cui appunto questa resistenza popolare non armata, diciamo, in maniera sistematica era molto forte. Comunque finisce male, perché insomma ricordiamo anche tutti gli ammazzati anche tra le forze di interposizione, cioè i militanti che facevano interposizione, Rachel Corrie mi viene in mente, cioè finiscono insomma malamente. E, però ritornando appunto in Cisgiordania dopo quell'esperienza, Ben Ehrenreich fa una riflessione, cioè vede un po' come è cambiato, diciamo, anche come in questi anni è cambiata la spinta anche, no? Come ad esempio la paura di essere ammazzati in maniera generale si è aumentata, e lui ad esempio dice che la Palestina sembrava bloccata in una routine. Anni di passività e disperazione seguiti da settimane di caos vertiginoso in cui sembrava che tutto potesse cambiare, finché la disperazione non si impadroniva di nuovo di tutto. La ripetizione era difficile da sopportare, le persone a cui avevo imparato a voler bene gradualmente scomparivano, chi poteva se ne andava, altri morivano o finivano in prigione o subivano una lenta morte interiore invisibile a chi non li conosceva. E appunto dice questa cosa di persone che vengono cancellate. Parlo di persone, alcune delle quali considero amiche, che per anni hanno impostato l'intera esistenza rifiutandosi di tacere. Persone che almeno per ora hanno deciso di accettare il silenzio come loro destino. Non posso menzionare i loro nomi o raccontare le loro storie senza metterli in pericolo. Da lontano il rumore delle persone che vengono cancellate in questo modo, quindi togliendogli, diciamo, con il terrore la voce, è quasi impercettibile, ma è stata la cosa più forte che potessi sentire in Cisgiordania, più forte del vento o del traffico ai posti di blocco, più forte del ronzio dei droni sopra i campi profughi o del ronzio dei jet in viaggio da e per bombardare Gaza, e mentre ero lì anche in Libano. E a proposito di droni, l'articolo, questa lunga narrazione si conclude proprio con questo fuga del giornalista e di due anziani palestinesi fuori dal cimitero di Jenin, e che appunto lui si ferma, perché loro, questi due anziani, sono lì per ricordare un giovane caduto, un martire, e lui si ferma così per parlare, per chiedere loro delle cose, e a un certo punto la loro conversazione molto così intensa viene interrotta loro capiscono che sta arrivando un drone e quindi tagliano la corda, perché si sa che appunto l'IDF utilizza i droni per ammazzare senza bisogno nemmeno di mandare un umano i palestinesi. E ad esempio rispetto a questo anche, e quindi anche alla responsabilità delle industrie degli armamenti, e anche riguardo ai gruppi così di difesa dei campi profughi sia di Tulkarem che di Jenin, appunto i combattenti che difendono quello che resta di questi campi dicono che spesso e volentieri devono combattere contro i droni e non contro i soldati, perché utilizzano questo sistema, siccome i campi profughi sono diciamo, hanno dei vicoli stretti e non sono riusciti ancora a spianare, a farne insomma dei viali per far passare i carri armati, sono ancora dei luoghi che intimoriscono i militari israeliani, e quindi loro appunto utilizzano questo sistema, il sistema dei droni. E mandiamo ancora un po' di musica e poi iniziamo anche con le letture delle testimonianze. Let's go! Sì, allora, Ben, giornalista americano, ritorna in Cisgiordania e da Betlemme, scusate, da Ramallah, vuole, prima tappa, diciamo, va nel campo profughi di Aida, nei pressi di Betlemme. Allora, mi stavo dirigendo verso il campo profughi di Aida, ai margini di Betlemme, un paio di giorni dopo il mio arrivo a Ramallah. Pochi degli attivisti che conoscevo, che avevano trascorso del tempo nelle prigioni israeliane dal 7 ottobre, erano disposti a parlare apertamente, ma Munter Amira disse che non gli importava. E chi è questo Munter Amira? Come molti attivisti della sua generazione, Amira fu incarcerato da adolescente durante la prima intifada. Quando Israele iniziò a costruire il muro nei primi anni 2000, durante la seconda intifada, lui e i suoi vicini di Aida iniziarono a organizzare proteste e a invitare attivisti stranieri a unirsi alle dimostrazioni. Per la nostra protezione, spiegò. Stavano seguendo un modello adottato dai villaggi più a nord, anch'essi lungo il percorso del muro, che stavano per essere tagliati fuori dai loro campi, frutteti e vicini. Mentre altri rispondevano agli attacchi israeliani con attentati suicidi o attacchi armati, la resistenza popolare, come nota tra i palestinesi, prese piede come alternativa. Il movimento, come lo intendeva Amira, non consisteva solo nel manifestare o lanciare pietre contro le jeep dei soldati, ma nell'organizzarsi, nel creare un tessuto di mutua assistenza, nella costruzione di reti di supporto che permettessero alla vita palestinese di sopravvivere nonostante la brutalità dell'occupazione. E allora, lui, Amira, dice: ci siamo presentati come un movimento non violento, ma proprio appunto sulla base di questa idea: restare uniti, rifiutare il destino scelto per te dal tuo oppressore e con il tuo coraggio ispirare gli altri a fare lo stesso. E lui dice: questa fu la base della mobilitazione di massa sia durante la rivolta del 1936, sia durante la prima intifada e tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, appunto prima intifada, e anche all'inizio della seconda intifada. Poi dice anche la distinzione tra lotta armata e disarmata è diventata significativa per gli occidentali quando Israele si è posizionata come alleato nella guerra al terrorismo degli Stati Uniti. E quindi diciamo, siamo all'inizio del 2000, appunto, con l'attacco alle Torri Gemelle. E allora, Aida, questo campo profughi, sarebbe rimasta un luogo di resistenza non violenta per i successivi due decenni. Gli abitanti del campo aprirono le porte ad attivisti stranieri, avevano storie da raccontare. Gli attacchi militari ai giovani che vivevano nel campo erano all'ordine del giorno. Nel 2017 i ricercatori classificarono Aida come la comunità più colpita dai gas lacrimogeni del pianeta. Ma dal 7 ottobre, ha detto Amira, non vi si è tenuta una sola manifestazione. Quasi immediatamente le forze israeliane hanno iniziato ad arrestare gli attivisti palestinesi. E poi ci racconta la sua storia. Amira non è mai stato incriminato. Il suo crimine, per come lo intendeva lui, era istigazione. Aveva pubblicato su Facebook alcuni versi del poeta siriano Nizar Kabani. «O folle popolo di Gaza», scrisse Kabani. L'era della ragione politica se n'è andata da tempo, insegnateci la follia. Era stato sottoposto a detenzione amministrativa, una prassi israeliana di lunga data, che consente alle autorità di detenere i palestinesi senza processo né possibilità di appello. Dal 7 ottobre la violenza fisica e sessuale contro i prigionieri palestinesi è diventata di fatto sistematica. Un rapporto di agosto dell'organizzazione israeliana per i diritti umani, B'Tselem, ha concluso che dall'ottobre 2023 il sistema carcerario israeliano è diventato per i palestinesi una rete di campi di tortura. Decine di persone sono morte in custodia. Le condizioni che Amira incontrò in prigione erano di gran lunga peggiori di qualsiasi cosa avesse mai sperimentato prima. I vetri delle finestre erano stati rimossi e le celle erano gelide e sovraffollate. Le percosse, disse, erano costanti e di routine. A un certo punto, raccontò, le guardie ammucchiarono i prigionieri uno sull'altro. Una guardia iniziò a passarmi un lungo bastone lungo il corpo, finché non arrivò tra le gambe, poi iniziò a giocarci, infine mi colpì. Boom. Il bastone, disse, era arrivato a pochi millimetri dallo schiacciargli i testicoli. La cella adiacente a quella di Amira ospitava prigionieri di Gaza, la cui tortura era incessante. Poteva sentirli urlare attraverso i muri. Un giorno si sorprese a implorare un uccello che si era posato sul davanzale di una finestra, implorandolo di non andarsene, di restare a parlarmi. L'uccello volò via. Le razioni erano quasi immangiabili e così scarse che perse più di 30 kg. Iniziò a urinare sangue. Ero molto vicino alla morte, disse. Dopo 10 settimane e mezzo fu rilasciato. Non seppe mai il perché. Altri attivisti che io e Amira conoscevamo, persone forti che avevano trascorso anni in prigione in passato, erano stati distrutti da queste loro ultime detenzioni dopo il 2023. I suoi amici stavano a casa, raccontava Amira, evitando le strade e i posti di blocco israeliani. Gli dicevano che era una follia rimanere attivo e rischiare di incontrare i soldati, ma Amira non sopportava l'alternativa, non voleva passare la vita nascosto. E difatti proprio questa determinazione di questo combattente popolare, diciamo, perché appunto combattente in questo senso, appunto viene, va a prendere a Ramallah il giornalista e lo porta al villaggio di Burin, circa 50 km a nord, per una raccolta delle olive. Qui c'è una, appunto, una descrizione di questa determinazione nel raccogliere le olive, ben sapendo che comunque l'esercito interviene perché proibisce di fare ai palestinesi di svolgere questa attività fondamentale. Quindi arrivano un po' di persone. Non solo il proprietario dell'ulivetto, il figlio e poi appunto un po' di solidali, anche dall'Italia tra l'altro, e anche da Israele, tre israeliani dissidenti, i quali poi fanno si contrappongono ai militari, e appunto chi avrà la peggio sarà proprio questo, nel senso che verrà arrestato e tenuto in condizioni, legato, insomma, in condizioni di tortura, per fortuna per poche ore, sarà proprio un dissidente israeliano, un solidale israeliano. E sì, e poi insomma, vabbè, la narrazione, vi dico, è molto dettagliata, interessante, parla anche, proprio parlando di questo uliveto, parla di questa drammatica situazione del confine, cioè del fatto che queste attività tradizionali del popolo palestinese, proprio sono accerchiate sempre di più dagli insediamenti dei coloni, e c'è questa adiacenza, insomma, pericolosissima con questi insediamenti, per cui da lì partono, appunto dagli insediamenti partono sì le distruzioni e le aggressioni, che portano anche spesso alla morte, ma comunque anche le distruzioni degli uliveti e dei campi. Poi vabbè, sì, vengono nominati diversi villaggi, appunto, che hanno subito hanno subito e subiscono continuamente questi attacchi da parte dell'IDF. Un'altra figura molto così vivida, cioè molto interessante anche, che il giornalista viene a incontrare è questa donna che si chiama Manal Tamimi, e del villaggio di Nabi Saleh. E lui ci dice: la risata di Manal aveva perso la sua vena nervosa, perché lui andava, quando viveva a Ramallah, appunto, andava ogni settimana il venerdì in questo villaggio dove si svolgevano delle proteste. Ogni venerdì tutto il villaggio faceva, appunto, la resistenza popolare, quindi lanciavano pietre e non solo, insomma, protestavano vivamente contro l'occupazione, e lui partecipava a queste manifestazioni. Le chiusure stradali e i posti di blocco allungavano il viaggio, che avrebbe dovuto durare circa 25 minuti, a più di un'ora. E infine superammo velocemente il cancello che l'IDF avevano installato fuori dal villaggio, qualche metro più avanti, il punto in cui due stati prima un soldato israeliano aveva aperto il fuoco su un'auto ferma, uccidendo un bambino di 2 anni, per poi svoltare a tutta velocità dietro la curva, dove 13 anni prima il 28enne Mustafa Tamimi era stato colpito al volto da un candelotto lacrimogeno, diventando il primo martire del movimento di resistenza non violenta del villaggio. In risposta alle manifestazioni, che per anni si sono svolte ogni venerdì, le IDF spesso facevano uscire un camion puzzola blindato che spruzzava getti pressurizzati di un liquido maleodorante non identificato sui dimostranti, a volte attraverso le finestre delle case, inzuppando le tappeti e mobili. Il tanfo si collocava a metà tra la cacca di cane e un cadavere in putrefazione. Quindi anche queste forme di umiliazione. Appunto questa compagna, questa Manal Tamimi, racconta delle proteste a Nabi Saleh in questo villaggio, che iniziarono nel 2009, e appunto per cercare di impedire il fatto che i coloni si impadronissero di una piccola sorgente sul pendio della collina. Ma che cosa succede, appunto? I coloni cacciano via man mano, per impadronirsi dell'acqua, iniziano a cacciare tutti i palestinesi che tentavano di raggiungere questa sorgente. Lei dice però, siccome di fronte a questa resistenza, a questa spinta di resistenza molto forte, ci sono state tantissime, insomma, le cose non sono andate bene, e molti anni di prigione, repressione violentissima, molti morti e molti ammazzati, appunto, pian piano, insomma, lo slancio diminuisce, le manifestazioni si riducono, finché nell'estate del 2016 il villaggio decise di fermarsi. E poi ci dice: negli anni successivi alla fine di queste manifestazioni a Nabi Saleh, le risposte israeliane alle manifestazioni pubbliche di dissenso divennero più letali. Durante le proteste della grande marcia del ritorno del 2018-19 a Gaza, i soldati ferirono più di 36.000 palestinesi, uccidendone almeno 214. A Beita, dove le proteste sono ancora attive, negli ultimi 4 anni sono state uccise quasi il doppio delle persone rispetto a quelle uccise a Nabi Saleh negli ultimi 15. Dal 7 ottobre il ricorso immediato alla forza letale contro i manifestanti palestinesi sembra essere diventato una politica ufficiale. Non conteniamo più le manifestazioni, le annientiamo, si è vantato un alto ufficiale dell'IDF a un sito web di notizie israeliano la scorsa primavera. Non si ricorre quasi più a misure di controllo della folla. I soldati stanno giustiziando deliberatamente palestinesi che non rappresentano alcuna minaccia apparente alla sicurezza. E, i giovani di Nabi Saleh, questo villaggio appunto, avevano continuato ad accogliere i veicoli militari israeliani con pietre per anni dopo la fine delle manifestazioni, però a un certo punto avevano rinunciato persino a questa forma di autodifesa in gran parte simbolica. Nonostante ciò l'esercito, anzi più che nonostante, e in più l'esercito continuava a fare incursioni nel villaggio due o tre volte alla settimana. Manal, questa compagna, ci dice: ognuno di noi sa che quello che sta succedendo a Gaza succederà anche in Cisgiordania. E appunto si rammarica del fatto che la rivolta popolare, diciamo, più diffusa, quindi, sia in un momento di grande difficoltà in Cisgiordania. E arriviamo a questa maturazione a vari livelli della necessità di difendersi in maniera più incisiva. E il giornalista ci parla di un'attivista non violenta che appunto vive in Cisgiordania e che cioè lei dopo, diciamo, questi attacchi, l'operazione Muro di Ferro, no, di un anno circa fa, e che ha colpito le città di Jenin, Nablus e Tulkarem, questi veri e propri pogrom, e anche questa attivista che è andata, insomma, in Palestina con l'obiettivo di portare avanti una resistenza non violenta, non parlava più di non violenza. Ogni singolo palestinese, uomini e donne, giovani e anziani, diceva, dovrebbe imparare a combattere, a usare un'arma. Tutti dovrebbero imbracciare le armi. Non lo disse con rabbia, non si trattava di vendetta, pensava solo alla sopravvivenza. Ancora una piccola pausa musicale e concludiamo. Fuck up the right hand road, but I will not lose my mind. Hey! Remember that do what I want and I will, cause I want no man. E arriviamo un po' alla conclusione di questa lettera viaggio nella Cisgiordania da Ramallah a Jenin, prima appunto che arrivino i droni che disperdono i testimoni, e parlando di Tulkarem, della brigata Tulkarem, ci siamo fermati prima a casa di Abdel Fattah Salah al-Din Jabara, ucciso a colpi d'arma da fuoco a giugno 2025 mentre si recava ad attaccare un posto di blocco militare israeliano. Sua madre ci stava aspettando, suo figlio si era unito alla resistenza armata senza dirglielo. Solo quando ha saputo della sua morte ha detto, ha scoperto che nei 7 mesi precedenti aveva combattuto nella brigata Tulkarem. La brigata aveva lanciato una manciata di operazioni offensive, l'uccisione di un israeliano fuori da un insediamento vicino nel maggio del 23 e alcune uscite per sparare attraverso la recinzione in una città israeliana al confine con Tulkarem. Per lo più si erano schierati in difesa dei 2 campi profughi di Tulkarem. Ogni volta che le truppe israeliane effettuavano incursioni, organizzavano imboscate con armi da fuoco e ordigni esplosivi improvvisati, nel tentativo di mantenere i campi come zone liberate. Questo è importante perché i campi profughi rappresentano, e difatti per questo l'IDF li attacca, il governo israeliano li attacca e li vuole annientare, rappresentano una prova vivente, diciamo, della non rinuncia al diritto al ritorno da parte dei palestinesi nella loro terra. E appunto la strategia israeliana di riprogettazione dei campi fa parte di un progetto più ampio di Israele volto a modificare le caratteristiche sociali, demografiche e geografiche della Cisgiordania, in particolare delle comunità che hanno svolto il ruolo di incubatori di resistenza, perché quasi tutti i campi profughi sono degli incubatori appunto di resistenza. Abdel Fattah aveva tenuto nascoste le sue attività a tutti i membri della famiglia, tranne che a suo fratello Mustafa, seduto in fondo alla stanza. Ridendo, Mustafa disse che ogni volta che sentiva che i soldati israeliani erano entrati nel campo, cercava di chiudere a chiave il fratello nella sua stanza, ma Abdel Fattah trovava sempre un modo per uscire. Mustafa capì perché suo fratello si fosse arruolato nella brigata. Aveva visto morire troppi dei suoi amici e tutti sapevano cosa stava succedendo a Gaza. Cosa poteva fare, disse. Bastava prendere un'arma e combattere. Insomma, da Tulkarem poi c'è un'altra bellissima figura che, insomma, comunque poi andate a leggere questo articolo su Invicta Palestina e così leggerete un po' tutte le testimonianze. C'è appunto questo, vi dico solo questo Gait, che è uno dei comandanti, diciamo, della brigata Tulkarem, è un giovane, 26 anni, che lo descrive così: aveva visto qualcuno ucciso per la prima volta davanti a sé a 8 anni, disse, e aveva abbandonato la scuola a 15. Aveva fatto lavoretti saltuari in Israele per anni e a un certo punto in un hotel di Tel Aviv aveva vissuto la frattura fra quella realtà scintillante e il mondo che conosceva come un'umiliazione. Si rese conto che vivevamo nell'ombra, disse. Non molto tempo dopo il 7 ottobre si unì alla brigata Tulkarem. Quando gli chiesi se qualche esperienza specifica lo avesse spinto a imbracciare le armi, scrollò le spalle. Ho visto bambini, neonati, anziani, donne uccise, disse. Dal suo punto di vista, la resistenza non violenta e anni di negoziati ufficiali avevano solo causato ulteriori perdite. È arrivato il giorno della nostra libertà, disse. Combattiamo per questo. Ecco, per concludere, arriviamo a Jenin. A Jenin, nel campo di Jenin, il giornalista cerca di incontrare anche qui le forze di resistenza, insomma, però quindi la brigata Jenin, però appunto per loro è troppo rischioso, quindi non vogliono che ci siano degli stranieri che entrano nel campo, e quindi ci entra la Mariam Barghouti, un'altra sua collega, ma insomma palestinese, e lei appunto intervista questo altro comandante che si presenta in maniera diversa, cioè risponde in arabo formale, utilizza un'oratoria, diciamo, più ufficiale, e appunto l'accoglie con queste parole: la strada per la libertà è una strada di sangue, le aveva detto, promettendo di continuare a combattere finché non libereremo la Palestina dal fiume al mare, anche se tutti i palestinesi venissero uccisi e solo uno rimanesse vivo. E Marian Barghouti dice: sembrava esausta, esausto questo combattente, e dice che 10 settimane dopo appunto si venne a sapere che l'uomo che aveva intervistato quella sera era stato ucciso. Il suo nome di battaglia era Amir Abu Arb. 2 giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco a Gaza, Israele lanciò il suo più grande assalto a Jenin dalla seconda intifada, svuotando il campo e sfollando decine di migliaia di persone prima di dirigersi verso Tulkarem e costringendo quasi tutti i residenti dei 2 campi profughi di quella città ad andarsene. La maggior parte dei combattenti era fuggita, ma Abu Arb rimase a combattere. E, sì, e niente, quindi queste insomma sono un po' le testimonianze di varie forme di lotta, insomma, di vari combattenti in vario modo. Ma sì, è molto, cioè è importante secondo me da questa lettera, sì, oltre alle testimonianze dirette che sono comunque anche originali e danno anche un'idea così del suo mood, dell'atteggiamento, ma anche dell'atteggiamento delle donne e degli uomini palestinesi, ma anche danno anche un'idea di come si vive, cioè di come si vive in una condizione diciamo quasi invivibile com'è quella di Gaza, ma anche della Cisgiordania sempre di più. E poi appunto dà dignità anche a questo discorso del passaggio da una resistenza popolare a una resistenza armata, anche se disperata in molti casi, no? Perché la controparte è una forza smisurata, diciamo, militare smisurata, quindi è chiaro che sì, chi decide di impegnare completamente tutta la sua vita sì, fino in fondo, diciamo, va incontro insomma facilmente alla morte. Ma questi racconti, sì, secondo me danno dignità, danno spessore, cioè proprio ci fanno entrare molto anche in queste scelte esistenziali molto molto forti, insomma molto, molto importanti. E appunto concludo con la frase che abbiamo utilizzato anche per la promo. I giovani del campo, parliamo di Jenin, avevano visto abbastanza per credere che sarebbero stati uccisi, che avessero combattuto o meno. Così hanno iniziato a chiedersi: perché aspettare che ci uccidano? I got a good feeling about a bad feeling tonight. so thick. That's why I'm pissed off. She had no money, I had the time. She had the champagne, I had the Cisco wine. She said, yo, wanna come, cause I better hurry. What will I pay? I gotta go to my dance tonight. I gotta go. Allora, si diceva poco fa di alcune iniziative molto importanti che avranno luogo nei prossimi giorni. La prima che vi segnaliamo è un corteo sabato 7 febbraio ore 15 a Viterbo, centro Italia, con partenza da via Cattaneo. Sabotiamo la guerra e la repressione al fianco della resistenza arabo-palestinese contro il 41 bis carcere di guerra. Libertà per Anan, Ahmad, Annun, Shahin, Tarek e tutte le compagne e compagni. Fuori Alfredo Cospito del 41 bis. Solo la resistenza può sconfiggere il sionismo contro le aggressioni imperialiste della NATO. È un corteo a cui seguirà un convegno domenica 8 febbraio a partire dalle ore 10.30 nell'auditorium Spazi Eventi via Treviso 4450, sempre a Viterbo, e che vedrà diciamo sviscerare tutte queste che abbiamo adesso lanciato slogan. Il programma completo lo trovate su, ad esempio, sul Rovescio. Il corteo e il convegno è organizzato da svariate realtà sia locali sia diciamo articolate anche a livello un po' più grande. Per informazioni scrivere a Comitato Lotta, tutto attaccato, Comitato Lotta VT @proton.me. ecco. E invece questo è questa domenica rimarrà uno dei due appuntamenti informativi di lotta organizzati dal coordinamento OGM, diciamo, del Nord-Est. Fermiamo la contaminazione. Due incontri informativi di lotta, il primo si è già svolto, il secondo appunto domenica 1 febbraio ore 18, tutti in piedi, piazza Canova 2 a Mestre. Entro aprile 2026 l'Unione Europea si prepara ad autorizzare l'arrivo dei nuovi OGM in tutti i paesi della comunità. Le ultime due votazioni, le conseguenze di questo disegno di legge sarebbero gravi e immediate. Piante, semi e alimenti contenenti OGM potranno essere venduti liberamente senza etichettatura, valutazione del rischio e tracciabilità. Ecco, alle ore 18, quindi dal tutto in piedi in piazza Canova 2 Mestre, insomma, ci si incontrerà per appunto sia ascoltare meglio insomma questa momento, insomma, le descrizioni di questo perché diventa improrogabile, diciamo, impegnarsi e coinvolgere più persone possibili su questa faccenda, sia anche per tracciare, immaginare concretamente i prossimi passi. Anche il mio cuore come il suo batte per Geronimo, è Malcolm X a fianco degli oppressi del mondo, come ci ha insegnato Nietzsche e Mao Zedong. Voglio Silvia libera subito perché anche il mio cuore come il suo avrebbe sofferto a sapere in galera a Santa Shakur i militanti del Belvedere Party, tutti assassinati in America dalla polizia, dall'FBI e dagli idioti del KKK. O tutti quelli che in quelle galere stanno adesso vivendo, morendo lentamente ogni giorno un po' di più. E Silvia Beraldini che da quelle galere sta portando avanti la sua, la loro, la nostra battaglia. Anche nel mio cuore è sceso il gelo quando hanno ucciso in prigione Andreas Bader, Ulrich Meinhof e gli altri prigionieri della rota Mefrazion. Voglio Silvia libera subito perché quando sento cantare la ballata di Pinelli rivedo quelle foto del suo corpo schiacciato sotto la questura di Milano, suicidato dalla polizia, suicidato. E ripenso anche a te. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti, anche da parte mia, chi ci ascolta naturalmente sia in diretta da questa che Radio Onde Furlane o dallo streaming, sia appunto da Zardins Magnetics Radio noblogs.org, sia dal Telegram. Noi trasmettiamo da tanti anni da questa radio che ci dà appoggio logistico, materiale, insomma non solo. Ed è una radio, diciamo così, mainstream. Noi in questo diciamo palinsesto della radio da cui trasmettiamo, cerchiamo di scavarci uno spazio autogestito che è anche però anti-mainstream. E a me sembrava, a noi sembrava così, che fosse venuto il momento anche di dedicare un po' di tempo, di spazio a una vicenda che, per quanto mi riguarda, ad esempio, ha provocato vasto così dibattito, diciamo discussione, ma anche rabbia, no? Personalmente, anche a me, cioè non a me personalmente, voglio dire, ho sentito gente infastidita, rabbiosa su questa vicenda della famiglia nel bosco, cosiddetta, che è nient'altro che consiste nell'allontanamento dei figli da una coppia di genitori che si era, diciamo, costruita un progetto di vita un po' fuori dagli schemi, ma in un contesto che nessuno può negare di affetto, ecco. Il tribunale competente, mi sembra di Chieti, adesso non lo so, ma comunque in Abruzzo si parla, i due genitori sono sì anglosassoni, non sono italiani, hanno appunto preso in custodia i bambini e inseriti in una comunità di quelle, in quelle strutture così, e, per minori di questo genere che hanno subito appunto allontanamento dalle persone che hanno la patria potestà su di loro. Un articolo appunto da cui prendo spunto, che si intitola e che è stato scritto da Elisa Lello, che studia, è una studiosa di antropologia, cosa adesso non ha importanza secondo me adesso, anche perché non mi sono andato a vedere nello specifico, ma comunque antropologia, diciamo, perché quanto accaduto alla famiglia nel bosco riguarda tutti noi, perché perché insieme al, insomma, diciamo così, schematizzando ehm, Allora, boh, l'articolo fa una proprio una griglia, diciamo, di tutte le discussioni, cioè di come sono schierate le opinioni in contrasto. Da una parte, appunto, la cosiddetta sinistra, non ben meglio, cioè portatori di così, non so, quella sinistra, componenti diverse ma abbastanza d'accordo fra di loro nel condannare le scelte di queste entità che si allontanano dalla strada battuta e che sono immediatamente tacciati, bollati di essere ignoranti e creduloni e quant'altro, non si va tanto per il sottile. Dall'altra, non so, ci sono una serie di soggetti che comunque non costituiscono né un gruppo né tantomeno una classe, che comunque sono recalcitranti, refrattari a arrendersi, diciamo, alla dittatura, sintetizzando, del digitale, che non è nient'altro che l'ultima espressione del dominio capitalistico. È un articolo che sviscera, diciamo, dicevo prima, anche se sono poche pagine, sviscera la questione, appunto, si schiera da una parte, chi si schiera dall'altra, ad esempio partendo dal discorso, cioè questi che criticano la famiglia nel bosco, di questi cosiddetti di sinistra, non si sono chiesti qual era l'idea che percorrevano, cioè li hanno scatalogati, li hanno negli stereotipi classici che vengono utilizzati per questo genere di scelte, diciamo così, New Age, per riassumere, senza appunto cercare di capire che cosa tendevano questo progetto dei due coniugi, no? Qui adesso mi sfugge il nome, ma cosa vuol dire, appunto, ritornare alla natura, ritornare a cercare di conquistarsi degli spazi di autonomia, cercare di rimpossessarsi di determinate pratiche, no? Di determinati modi di stare al mondo, significa, appunto, innanzitutto per chi ha scelto di mettere al mondo dei figli, scontrarsi con quella che è la realtà, appunto, a cui sono, diciamo così, abbandonati, a cui è abbandonata l'infanzia di quest'epoca che ormai è, diciamo, sono sommersi. Chi nasce adesso, è nato negli ultimi 10 anni, è sommerso dalla virtualità, no? Dalla realtà dello schermo che viene strisciato, no? Il touch screen. E quindi ci sono delle autorità che, insomma, che intervengono allontanando dei minori appunto fuori dagli schemi, che vivono fuori dagli schemi ma in contesti affettivi, ma cioè in realtà quella che è vissuta come normalità, tra virgolette, dell'infanzia è un'infanzia abbandonata, un'infanzia sola davanti a questi touchscreen, non per colpa dei genitori. I genitori sono nella maggior parte dei casi presi male da, se esistono, lavori precari, tempi di vita ingestibili, continue richieste da parte, appunto, di queste, chiamiamole burocratiche, nella fattispecie per chi ha dei figli della scuola che si è completamente, diciamo, votata a questo paradigma del digitale, e quindi praticamente i genitori sono diventati, praticamente in questa vicenda ha aperto, diciamo, uno squarcio sul fatto che i genitori sono diventati praticamente l'ultimo baluardo contro la brama di possesso dell'infanzia da parte dello Stato, che è stato del mercato, no? E qua io vorrei fare una digressione, perché mi è venuto in mente un celebre testo, cioè una serie di scritti che erano stati concepiti in un'epoca completamente diversa, che era quella post 68, no? In particolare questi due studiosi francesi, Guy Hockingham e René Scherrer, in particolare avevano scritto questo album sistematico dell'infanzia che si chiamava Coire, e c'era, insomma, rispecchiava tutta una serie di, non dico comune sentire, comunque una serie di sensibilità, no, che si davano per scontate in quell'epoca lì, particolare, con tutta una serie di intense, diciamo, ondate di volontà di affermarsi, volontà di vivere la vita come appunto realizzazione di una serie di desideri, no? E quindi loro avevano sviluppato questa critica radicale della pedagogia occidentale, perché secondo loro la pedagogia occidentale era viziata nella tendenza alla sorveglianza ossessiva dell'infanzia, del bambino, no? Quindi sotto questo campo di forze che era la sorveglianza, bambino e maestro erano sin da subito esclusi dal desiderio, no? Cosa vuol dire? Che appunto, ad esempio, dice qua nell'Emilio Pervertito che aveva scritto René Scherrer, la prima relazione pedagogica è comandata dal desiderio. In un secondo tempo bisogna che il desiderio si ritiri per lasciare il posto all'educatore, virgolette. Niente più familiare e strano di questo corpo consacrato ad un compito eternamente ripetitivo, essenzialmente verbale, anche quando riguarda l'attività manuale. Corpo con un solo organo, la voce, diafano. Ogni piacevolezza è per principio esclusa dalla relazione funzionale che deve stabilire con coloro i quali è incaricato di trasmettere ciò che lui stesso ha imparato nelle medesime circostanze, in seno alla medesima astrazione. Qui non troverete un solo corpo piacevole, scrive Gombrowicz, qui ci sono soltanto dei corpi pedagogici. E allora, mi rendo conto che sono anche concetti un po' indigesti, ma la realtà, insomma, quello che neuroscienza e tecnologia si stanno impegnando, diciamo, i neuroscienziati della Silicon Valley sono al lavoro precisamente per far sì che appunto poter crescere i figli facendo l'orto insieme e intanto mandarli alla scuola pubblica, così che possano entrare in contatto con diversi modi di stare al mondo e in modo che appunto gli esempi diventino tali, no? Cioè ci sia un percorso educativo. Per esserci un percorso educativo bisogna che il destinatario dell'azione educativa abbia la possibilità di mettersi, capito, in contatto con questi esempi, no? Non possono scorrergli davanti in maniera compulsiva, ma, dicevo, i neuroscienziati della Silicon Valley sono al lavoro precisamente per far sì che questo non possa avvenire, per far sì che nel momento in cui hanno uno smartphone in mano, la vita là fuori diventi una noiosa dilazione del momento in cui si potrà finalmente tornare a scrollare video, reels e controllare notifiche. È possibile crescere bimbi felici, dice Elisa Lello, di assaporare bimbi felici di assaporare i fagiolini appena colti dall'orto quando entrano in contatto col Mac, col sì, McDonald's, o quando andando a scuola si sentiranno diversi e magari esclusi perché porteranno nello zaino il frutto o la crostata al posto della merendina confezionata e non conosceranno l'influencer di un momento da mille mille visualizzazioni. E questo non ovviamente perché il Big Mac o lo scrolling compulsivo abbiano qualcosa di oggettivamente migliore rispetto a imparare a levare le api, suonare uno strumento o annoiarsi ascoltando il vento tra gli alberi, ma vincono questi, che sono il Big Mac e lo scrolling, perché sono più facili, palatabili, passivizzanti, spossessanti. E qui si ritorna a Ivan Illich, ma comunque nel senso che ha svolto delle ricerche a suo tempo Ivan Illich su cosa voleva dire appunto essere colonizzati, no, nel campo della pedagogia, ad esempio, cioè attraverso la pedagogia colonizzare, ecco. Ma i colonizzati non si tratta solo delle popolazioni cosiddette primitive, no? I primi a essere colonizzati siamo stati proprio, cioè la prima colonizzazione si è svolta anche in Europa, nel senso che l'Inquisizione ha significato bruciare insieme alle cosiddette streghe anche tutta una serie di, lo mette in evidenza Elisa Lello, tutta una serie di pratiche, di paradigmi che erano stati tollerati anche dalla Chiesa ufficiale, no? Fino a quel momento, fino al presentarsi dell'età moderna. Nel fuoco dei roghi, insieme alle streghe, sono andati in fumo saperi radicati in un'epistemologia che negava la distinzione tra spirito e materia. La loro cancellazione violenta è stata necessaria per l'affermarsi della scienza moderna che affonda le radici in un'epistemologia totalmente differente, basata invece su una natura morta, mero ordigno meccanico-matematico, materia inerte da quantificare, controllare, depredare, sfruttare, senza la quale la modernità industriale coloniale sarebbe impensabile. Ecco, quindi è cambiato molto dai tempi di Scherrer e Ockenheim, dai tempi dell'erbavoglio, diciamo, di qua delle Alpi, dai laboratori per i bambini, insomma laboratori educativi, nel senso che erano sia per i bambini erano educati, ma anche gli educatori erano era un processo, no? Il percorso educativo era concretamente un processo imprevedibile, no? Non era tutto quello che è diventato oggi, no? Tutto quello che sono diventate oggi le istituzioni educative, eccetera. Si parte appunto da questa presa di coscienza del fatto che appunto tutta una serie di pratiche di mentalità, eccetera, che erano, ripeto, che le gerarchie ecclesiastiche tolleravano, no? Abbiamo parlato anche altre volte delle guaritrici, dei benandanti, eccetera, no? Che erano tra l'altro collocati proprio non in città normalmente, ma nelle campagne. Quindi la guerra è una guerra, la guerra svolta dal capitale, diciamo la guerra si dice capillare, che il capitale e che lo Stato svolgono contro gli oppressi, è una guerra di appunto sia rivolta verso il contadino, no, che abbiamo detto, mi sembra già cercato di dirlo questo altre volte, e rivolta contro queste individualità che cercano anche in maniera poco, non so, sui generis, così ispirate, una loro strada di per reagire, no, all'oppressione del così dello spossessamento della vita così digitale, chiamiamola così, tecnologica. E allora ci sono anche altre conclusioni a cui aggiunge questo pamphlet, ma quello appunto va valorizzato, insomma, questa storia della famiglia nel bosco per questo motivo, insomma, perché sono così come chiunque cerchi di recuperare saperi e sguardi un po' più ampi rispetto al ristrettissimo angolo visuale autorizzato, no? E quindi riemergono queste resistenze anche da parti insospettabili di umanità e di tentativi di riappropriarsi di un cosmo, no? Di una visione cosmologica della realtà, non più ridotta, insomma, a cieca meccanica. Bene, su questo brano così che sfumo e comunque lo tengo in sottofondo, anche vi presento, insomma, in un certo senso band che abbiamo ascoltato in precedenza. Abbiamo anche ascoltato i Rancid, band statunitense che si è formata agli inizi degli anni 90, anzi abbiamo ascoltato un loro album, brani estrapolati da un loro album datato 1994, e poi abbiamo ascoltato, anzi stiamo ascoltando, dei brani che sono tutti presi, insomma, da questo CD che si chiama Bombs Two Shot, ovvero sia più che altro è 23 Bombs Two Shot, perché ci sono 23 brani in questa compilation uscita nel 1997 qui in Italia grazie alla Blue Bass, che era un'etichetta di Aosta, e praticamente qui in questo CD raccoglie, credo, tutte le band o perlomeno la maggior parte delle band, dove hanno insomma coprodotto, autoprodotto dei dischi all'epoca. Bene, altra cosa, sempre lasciando andare questo brano, siamo al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che ogni giovedì in diretta radiofonica qui gli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine, va in onda anche oggi 29 gennaio 2026. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Dato che insomma mancano 3 minuti e mezzo circa al termine, così ci ascoltiamo poi un altro brano, ricordo anche i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, basta che insomma lo scrivete alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa puntata di Zardins Magnetics, ma anche quelle delle volte scorse, potete ascoltarla nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Salutiamo tutti e anche chi ci ascolta domani in replica sulle due web radio, ovvero alle ore 11 del mattino su Radio Eustachio e nel pomeriggio dalle ore 17 su Radiazione. Bene, l'appuntamento ovviamente è per il prossimo giovedì, come l'ho già detto, mentre ora vi lascio con un brano sempre da questo CD, come vi ho detto, 23 Bombs to Shot, in Nuvola Blu. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.